Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago, a me sì cara vieni, o sera. E quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata, e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi miei pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo, e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge. E mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier ch'entro mi rugge.